Letture di Radio 24. Quando si parla di disoccupazione giovanile, istintivamente viene da pensare ai neolaureati. Ma come evidenzia un recente rapporto Eurostat, i giovani con una laurea in Italia sono una piccola minoranza, per cui il vero problema in Italia sono i diplomati disoccupati. Scrive Gianni Balduzzi sul sito L'Inchiesta. È vero che quasi il 60% dei 20-24enni è iscritto ad una facoltà, ma allo stesso tempo tra i 30-34enni i laureati sono solo il 25%, e questo nonostante 10 anni fa gli iscritti all'università fossero più di oggi. Quel 42% di rapporto tra iscritti e laureati è la percentuale più bassa in Europa. Tra i 20 e i 29 anni, sempre per Eurostat, solo il 16,4% ha una laurea in Italia. È il paese con meno laureati in questa fascia d'età, ma inaspettatamente c'è un paese con una percentuale ancora minore, la Germania. Si può rimanere sorpresi se non si conosce la lunghissima tradizione, più che secolare, di alternanza scuola-lavoro, di corsi professionali avanzati in collaborazione con le aziende, di apprendistato che rendono la Germania unica in questo campo e inimitabile da noi. Questo si capisce chiaramente se si osserva il tasso di occupazione di questi giovani diplomati. Eurostat ci dice che la differenza con la Germania e gli altri paesi pare insormontabile. Nel paese di Angela Merkel, una quota di giovani con diploma quasi doppia rispetto alla nostra risulta occupata, il 72,3% contro il 39,6%. E allora composta di diplomati e ragazzi con la terza media, l'enorme quantità di disoccupati e inattivi sotto i 30-35 anni. Un numero lievitato con la crisi, e più di quanto sia accaduto per i laureati. Se il tasso di occupazione dei giovani laureati tra il 2006 e il 2014 è calato dell'11% nel nostro paese, per i diplomati è sceso del 13,3% e per chi non aveva neanche un diploma del 18,4%. Tra le performance peggiori d'Europa, almeno considerando i paesi più grossi. Solo la Spagna ha visto crolli peggiori dei nostri. In Germania e Polonia l'occupazione dei diplomati è addirittura salita più di quella dei laureati. Non a caso sono i due paesi che la crisi non l'hanno sofferta e due degli stati con maggiore incidenza del settore manifatturiero sull'economia, dove la produzione di beni e non solo l'erogazione di servizi ha resistito, si è adattata e anzi ha approfittato della globalizzazione. L'Italia viveva finora una situazione piuttosto atipica in Europa, era tra i paesi con la minore differenza di occupazione tra laureati e non laureati. Il luogo comune per cui non conviene laurearsi perché tanto l'elettricista e l'idraulico si fanno la villa, mentre il laureato in economia prende 1000 euro al mese, era ingiustificato, ma nel nostro paese era meno lontano dalla realtà che altrove. Si trattava di un sintomo dell'arretratezza del nostro tessuto economico, fatto di piccole e micro imprese con poca domanda di personale specializzato o di posizioni manageriali, di un ampio numero di laureati inattivi soprattutto al sud, della permanenza al lavoro, causa riforma delle pensioni, di milioni di non laureati ultra 55enni. Con la crisi economica, in un certo senso, l'Italia si è avvicinata allo standard europeo, come più di quanto già avviene altrove. Le nostre aree più disagiate, il sud, le periferie, si stanno riempiendo di persone che non hanno studiato e che non hanno un lavoro, per quanto umile. Considerando la silente ma costante tendenza a ripercorrere le scelte dei genitori, per cui è molto più probabile per un figlio di un non laureato rinunciare a iscriversi o a finire l'università, questo vuol dire una società sempre più diseguale e fragile. Abbiamo pochi primati in Italia, tra questi però vi era una certa coesione sociale, un'apparente minore visibilità della divisione in classi, l'assenza di ghetti e banlieue paragonabili a quelle di altre metropoli estere. Questi trend negativi rischiano di farci avvicinare a modelli ed esempi di instabilità sociale da cui vorremmo tenerci lontani. Avete ascoltato l'articolo di Gianni Balduzzi, altro che laurea. Il dramma italiano sono i diplomati disoccupati, pubblicato il 5 aprile sulla rivista online L'Inchiesta. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in Digital Radio. Letture di Radio 24. Anche se l'ex moglie di Mick Jagger non era proprio una cenerentola, il recente matrimonio tra Jerry Hall e Rupert Murdoch ha riportato in auge il tema dei matrimoni di interesse. È l'antica arte di appendere il cappello, commenta Giuseppe Scaraffia in un articolo pubblicato sul Venerdì di Repubblica. Di solito chi è meno benestante cerca nel coniuge una figura genitoriale in grado di garantire il suo benessere. Per questo i settantenni con pensione statale non vanno a ruba, a differenza dei coetanei milionari, perché non rappresentano figure paterne. Il matrimonio della macchina da cucire con la lira. Così era stata bollata la riuscitissima unione tra il principe de Polignac e Vinaretta Singer, entrambi omosessuali e melomani. A chi glielo rinfacciava, il principe replicava: «La macchina da cucire è una grande artista, la mia lira ha una sola corda, ma le grandi rendite di mia moglie mi daranno un'orchestra». Meno riuscito un analogo esperimento tra la pittrice lesbica Romaine Brooks e un pianista gay troppo attento alle convenienze, ma una separazione e un adeguato assegno di Romaine avevano risolto ogni contrasto. A volte essere cacciatori di dote non basta. Quello tra una ragazza grassoccia ma ricca e un ascetico dandy, Marcel Duchamp, ne fu un esempio. Lo si sarebbe potuto definire un matrimonio di interesse se la famiglia della sposa, insospettita dalle ragioni di quel seduttore privo di mezzi, non avesse fortemente limitato la rendita all'Heidi. Deluso, Duchamp aveva abbandonato la pittura per gli scacchi. Una sera, stanca di aspettare il suo ritorno, la moglie gliele aveva fatti trovare incollati alla scacchiera. Inevitabile il divorzio. Il duca di Galles, che aveva cercato invano di opporsi al matrimonio della figlia Maria col giovane squattrinato D'Annunzio, affrettato da una fuga d'amore e da un parto imminente, stava in realtà espiando il suo passato. Infatti, quando era arrivato a Roma al seguito dell'esercito francese, Jules Hardouin era un semplice sottufficiale che solo l'ostinato amore di una nobildonna aveva elevato al rango di duca. Tre figli non sarebbero riusciti a trattenere l'irruente D'Annunzio, che però rimase sempre in ottimi rapporti con la consorte. Certo, l'amore prolunga le unioni di questo tipo. «Cara, non penserei mica che mi metta a lavorare», aveva chiesto André Malraux a Clara, la giovane moglie dell'alta borghesia ebraica che aveva fino all'ultimo centesimo finanziato i suoi viaggi e le sue speculazioni. Una fuga a Firenze aveva cancellato i dubbi della famiglia della sposa, ma i familiari non sapevano che i due, romantici e innamorati, si erano reciprocamente promessi di divorziare entro 6 mesi. Invece la coppia sarebbe durata ben 15 anni. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giuseppe Scaraffia, L'antica arte di appendere il cappello, dal Venerdì di Repubblica dell'8 aprile. Mentre la sua ex moglie convolava a nozze con il magnate australiano, Mick Jagger si preparava ad affrontare quello che sarebbe diventato un evento storico. Il concerto a L'Avana, a corollario dei segnali di apertura espressi pochi giorni prima da Obama durante la sua visita a Cuba. E anche se a Cuba, nonostante i segnali di miglioramento, il rispetto dei diritti umani rimane ancora un'utopia, come dimostrato dalle dure repressioni dei dissidenti nei giorni che hanno preceduto l'arrivo di Obama, la trionfale esibizione degli Stones ci aiuta a capire cosa abbia significato il rock and roll durante le dittature comuniste. Scrive Jan Buruma in un articolo pubblicato nei giorni scorsi su Repubblica. Negli anni 70 la Cecoslovacchia era, al pari di altri stati comunisti, un luogo tetro, opprimente e triste, in cui i mediocri uomini di partito facevano il bello e il cattivo tempo e il piacere creativo veniva represso dall'imposizione di una coltre di comunismo. Il rock and roll era considerato una forma nociva di decadenza capitalistica. I dischi dei Rolling Stones e di altri gruppi occidentali erano banditi. Eppure venivano introdotti illegalmente in Cecoslovacchia e in altri paesi dell'Europa dell'Est, dove erano apprezzatissimi dai giovani amanti della musica rock, tra i quali vi era Václav Havel, il dissidente e drammaturgo che un giorno sarebbe diventato presidente ceco. Quelle sonorità proibite, forti, anarchiche, sensuali, offrivano agli oppressi una via di fuga dalla mestizia della vita di tutti i giorni. Il rock and roll consentiva alla gente di immaginare, anche se solo per qualche attimo fugace, come ci si potesse sentire a essere liberi. Ed è per questo che le autorità consideravano quella musica come qualcosa di profondamente sovversivo. Lo scorso mese Mick Jagger ha detto in spagnolo ai suoi fan cubani che i tempi stanno finalmente cambiando. Si tratta di belle parole, ma il raggiungimento della libertà politica a Cuba potrebbe richiedere tempi lunghi. Si tratta di un primo passo. Il rock and roll è ufficialmente sbarcato a Cuba. Jagger ha reso il dovuto omaggio alle tradizioni musicali estatiche dell'isola e i cubani già sanno ballare. Il prossimo passo, ben più importante, si avrà quando gli autocrati si faranno da parte. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Jan Buruma Quando erano vietati dalle dittature, da La Repubblica dell'11 aprile. Quattro giovanissimi zingari sfondano una vetrina per rubare dei cellulari e quando vengono arrestati, e come sempre avviene in questi casi, subito rilasciati, sbeffeggiano la polizia facendosi fotografare sorridenti e con il pollice alzato. Ma c'è poco da ridere, commenta Massimo Gramellini nel suo editoriale sulla Stampa. I quattro adolescenti rom che sguainano impavidi i pollicioni davanti alla fotocamera non sono una rock band, ma una band e basta, immortalata nella sala d'aspetto di un distretto di polizia. Hanno divelto un tombino nel centro di Vicenza alle 4:30 della notte e lo hanno scagliato contro la vetrina di un negozio che esponeva due nuovi modelli di iPhone. Sono stati presi mentre scappavano con la refurtiva. Il capo ha 15 anni, gli altri, tra i quali una ragazzina fuggita da una casa comunità, anche meno. Dire che non sembrano pentiti è un eufemismo. È che non sembrano neanche preoccupati delle conseguenze. Si comportano da impuniti perché sanno che tanto nessuno li punirà. Infatti, subito dopo la foto, sono stati rimessi in libertà. Ora non dico di mandarli in carcere, dove imparerebbero soltanto a diventare peggiori. Ma cosa vieta di spedirli 2 ore al giorno a fare gli spazzini in un parco pubblico o i camerieri alla mensa dei poveri? Altrimenti cresceranno con l'idea che la vita sia un luogo senza regole, dove a ogni azione non segue mai qualche forma di reazione. Voglio vivere in uno stato che non faccia paura, ma uno stato che non incute più rispetto. Si merita quei pollicioni, simbolo della sua resa. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Massimo Gramellini, C'è poco da ridere, da La Stampa del 12 aprile. In un paese normale sarebbe corretto far pedinare un dipendente da un investigatore per verificare le sue assenze, ma da noi non è così semplice, come racconta Gian Antonio Stella in un articolo pubblicato sul Magazine 7. Protagonista della storia è Pierpaolo Bernardis, un signore trentino che dopo aver lavorato per anni in banca era stato nominato alla presidenza dell'AMSA, l'azienda turistica di Arco di Trento, nella valle del Sarca che sfocia nel lago di Garda, un'area da sempre amatissima dal turismo. È cominciato tutto il giorno in cui mi è stato detto che il custode del casinò, Vito D'Onofrio, aveva chiesto di fare 5 settimane di ferie a cavallo di luglio e agosto, racconta Pierpaolo Bernardis. Dico, sono tante 5 settimane ai tempi della vendemmia, cioè quando in estate c'è il boom dei turisti, e cerco di trovare una mediazione. Pochi giorni e mi dicono che quello, per 5 settimane, si è messo in congedo parentale. Doveva accudire la figlia più piccola. Ma si sa com'è, il paese non è grande, la gente chiacchiera. Salta fuori che la moglie e le figlie sono in realtà in Germania, a 600 chilometri di distanza. E lui invece è lì, nei dintorni, dove arrotonda d'estate in una piscina e la sera in una discoteca. A quel punto Bernardis decide di vederci chiaro. Mi consulto con un consulente del lavoro e mi faccio dare i recapiti di un'agenzia di investigazioni. La contatto e chiedo di sapere cosa fa il signore nelle ore in cui dovrebbe accudire la figlioletta. Accertati i fatti, Bernardis propone di dare al furbino almeno il minimo della sanzione, 5 giorni di sospensione. Ma che? Quello non accetta, fa ricorso, si rivolge alla CGIL. Come hanno osato farlo pedinare? Come hanno osato? Da quando in qua un'azienda pretende di sapere se un suo dipendente accudisce davvero la figlia in congedo parentale? Incredibile, ma vero? Il braccio di ferro finì in una condanna del presidente, non del dipendente, che sarebbe stato condannato solo più tardi, per danno erariale. Secondo la sezione locale della Corte dei Conti, non aveva verificato la possibilità di ricorrere ad alternative diverse dal detective privato con minori spese per la società, interamente possedute dal comune. La sentenza finale, appena uscita, ribalta tutto e dà ragione a Bernardis riconoscendogli il diritto di non scucire un cent. L'urgenza nel provvedere indusse il presidente dell'AMSA ad utilizzare il mezzo che appariva attendibilmente più idoneo a disvelare il comportamento del dipendente sospettato di svolgere attività retribuita presso terzi nel periodo di congedo. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Gian Antonio Stella, Il furbetto del congedino parentale, dal Magazine 7 del 15 aprile.